sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Inchiesta sulla P3, setaccio i conti di Verdini, Berlusconi furibonda, campagna mediatica. Intercettazioni, il PD e l'UDC votano l'emendamento del governo Di Pietro, si dissocia, manovra dalle regioni parere negativo, il Consiglio dei Ministri. La crisi condiziona le vacanze, il 46% degli italiani resta a casa. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, dalla redazione di Radio 24. L'inchiesta sulla cosiddetta P3 e gli inquirenti setacciano i conti di Denis Verdini, di Flavio Carboni. Intanto Silvio Berlusconi parla di campagne mediatiche. L'inchiesta sulla cosiddetta P3, che coinvolge diversi esponenti di primo piano della maggioranza, agita le acque nel Popolo delle Libertà. Dopo il richiamo del presidente della Camera Fini alla questione morale, sul caso oggi è intervenuto anche Berlusconi. Il premier ha invitato il partito all'unità, sostenendo che in questi giorni contro PDL e governo sono riprese quelle che ha definito furibonde campagne mediatiche. Sulla stessa linea anche l'autodifesa di Denis Verdini. Il coordinatore del PDL, uno dei principali indagati, parla di una regione dietro la diffusione delle notizie che lo riguardano e assicura che i 2,6 milioni di euro sui quali sta indagando la finanza sono frutto dei suoi sacrifici e non di misfatti. La Procura di Roma continua intanto ad indagare su una serie di operazioni ritenute sospette, transazioni bancarie e passaggi di assegni che coinvolgono anche prestanome, dietro i quali, secondo gli inquirenti, potrebbero nascondersi operazioni illecite riconducibili agli indagati. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. La Commissione Giustizia della Camera ha approvato l'emendamento del governo alla DDL Intercettazioni che allenta il cosiddetto bavaglio alla stampa. A favore della proposta di modifica ha votato la maggioranza insieme al Partito Democratico e all'UDC. Solo l'Italia dei Valori ha votato contro. La manovra economica al centro dei lavori del Consiglio dei Ministri, in diretta da Palazzo Chigi, Maria Chiara Grandis. Sì, buongiorno. Alla conferenza stampa seguita al Consiglio dei Ministri, Giulio Tremonti risponde alle rinnovate critiche delle regioni sulla manovra economica. Le regioni scenderanno dai grattacieli e torneranno al tavolo, dice il Ministro dell'Economia. Aggiunge che nell'ambito del federalismo fiscale anche loro avranno una sede per discutere. E proprio a proposito di federalismo fiscale, questa mattina il Consiglio dei Ministri ha approvato uno dei decreti attuativi, quello relativo ai fabbisogni di comuni, città metropolitane e province. È un testo che ora passerà all'esame della conferenza Stato-Regione, poi alla commissione bicamerale, dopo l'estate infine tornerà a Palazzo Chigi per l'approvazione definitiva. Entro l'autunno il quadro generale sarà completato, sostiene il ministro della semplificazione Calderoli. Il governo sta lavorando sulla cedolare secca, sugli affitti, grande recupero di gettito per i comuni, ha spiegato il ministro dell'economia Tremonti, puntualizzando che sull'imposta municipale unica non c'è stata nessuna retromarcia. Il ministro sottolinea invece che il decreto sull'autonomia sarà pronto entro fine mese e ribadisce che il governo non ha nessuna intenzione di reintrodurre la tassa sulla prima casa. Questa mattina da Palazzo Chigi è arrivato anche il via libera al regolamento dei servizi pubblici locali, che liberalizza cioè servizi come rifiuti, trasporto locale e acqua. A questo proposito il governo si è espresso sulla raccolta di firme contro la privatizzazione dell'acqua dei giorni scorsi, un referendum falso come contenuto ideologico, dice Tremonti, firme che sono una bugia anche per il ministro delle politiche europee Andrea Ronchi. E da Palazzo Chigi è tutto, linea a voi. Grazie a Maria Chiara Grandi. Se le famiglie hanno visto diminuire il loro reddito del 2,6% nel 2009 e considerando l'andamento dei prezzi segna una flessione del 2,5% del loro potere d'acquisto, lo dice l'Istat nelle statistiche in breve sui conti economici nazionali. Concommercio conferma la previsione di un PIL allo 0,7% di quest'anno alla luce dell'andamento debole dei consumi delle famiglie. Lo dice il presidente Carlo Sangalli al microfono di Daniela Binella. Il nostro ufficio studi ha preventivato per il 2010 un aumento dei consumi soltanto dello 0,4%. Allora, di fronte a questa situazione bisogna mettere in campo delle misure che non possono più aspettare. E la prima è certamente quella di ricreare, di consolidare un clima di fiducia delle famiglie attraverso alcune riforme qualificanti come la riforma fiscale e quella del federalismo. Il giro d'affari delle vacanze estive cresce del 20%, però aumenta il divario tra chi può permettersi un periodo di vacanza e chi no. E comunque un italiano su quattro non fa vacanza per mancanza di soldi. Sono i dati dell'osservatorio di Federalberghi. E ora le novità in casa Fiat. Il consiglio d'amministrazione della Fiat ha potuto festeggiare ieri la riunione nella sede dell'alleata Chrysler a Auburn Hills, Michigan, con un utile trimestrale operativo più che raddoppiato e un risultato netto tornato in nero. Un trimestre eccezionale, per usare le parole di Sergio Marchionne. Dalla riunione è emerso l'atteso via libera allo scorporo delle attività nei camion e nei trattori, che dal prossimo 1 gennaio saranno quotate separatamente nella Fiat Industrial. Ma la notizia è arrivata dalla conferenza di Marchionne con gli analisti finanziari. La nuova vettura destinata a Mirafiori tra un anno e mezzo, una monovolume che sostituirà Idea e Multipla, non verrà prodotta a Torino ma in Serbia. Finché è aperto il dossier pomigliano, c'è troppa incertezza per investire in Italia, dice il manager italo-canadese, che pure ha confermato il progetto di riportare la Panda a Pomigliano. Ma di fronte all'incertezza in Italia e a un governo serbo che pagherà un quarto dell'investimento, la scelta di Marchionne ha seguito la linea della lettera ai dipendenti della settimana scorsa, e cioè le regole della competizione internazionale non le abbiamo scelte noi, aveva scritto Marchionne, e nessuno di noi ha la possibilità di cambiarle, anche se non ci piacciono. Andrea Malan, GR24, Il Sole 24 Ore, Detroit. A tre mesi dall'incidente che ha sconvolto gli equilibri ambientali nel Golfo del Messico, si cercano nuove soluzioni per bloccare la marea nera. Dal web spunta però la terza foto taroccata da British Petroleum. Quattro delle maggiori società petrolifere del mondo daranno vita ad una joint venture per creare un sistema che fermi le possibili fuoriuscite di petrolio nel Golfo del Messico. Lo scrive oggi il Wall Street Journal, secondo cui le società coinvolte sono ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell e ConocoPhillips. Intanto dal web spunta un'altra foto taroccata da British Petroleum delle operazioni per contenere la marea nera. L'ha scoperta un giovane blogger, scrive il Washington Post, che ha avuto conferma da un portavoce della compagnia che l'immagine è stata alterata. Nell'immagine che BP ha pubblicato sul suo sito, due piloti di un elicottero in volo osservano le navi impegnate nei lavori per contenere l'emergenza. Ma il giovane blogger ha scoperto che in realtà si tratta di un vero e proprio fotomontaggio e che l'elicottero era parcheggiato sul ponte di una nave. Il portavoce della compagnia petrolifera Scott Dean ha fornito al quotidiano la foto originale, spiegando che l'immagine è stata alterata dal team di post-produzione per ragioni tecniche e assicurando che non succederà più. Ma si tratta della terza foto taroccata scoperta in una settimana. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. La notizia di una donna di 42 anni in fin di vita a Livorno per un probabile contagio di BSE mucca pazza ha rilanciato l'allarme, però ritenuto da esperti e autorità del Ministero della Salute ingiustificato, considerando che il contagio risale a prima dell'attivazione dei controlli serrati tuttora vigenti. Nicoletta Carbone ha intervistato il professor Maurizio Pocchiari, è un neurologo ed è responsabile del registro nazionale di questa malattia nell'Istituto Superiore di Sanità. La malattia di Crohn-Jacob sporadica è una malattia che esiste in tutto il mondo e è sempre esistita e non è legata al consumo di carne. In Italia noi abbiamo circa 100 casi l'anno di questa forma sporadica, mentre invece la variante è legata al consumo di carne infetta, è una malattia estremamente rara, ce ne sono stati in tutto il mondo non più di 220 casi e quindi è importante fare questa distinzione perché hanno due etiologie completamente diverse. Comunque professore, della variante sino ad oggi in Italia ci sono stati veramente pochi casi rispetto a quello che si pensava ai tempi, me lo lasci dire, della mucca pazza. Assolutamente sì. Perché i controlli sono stati fatti, quindi questo vuol dire questo ha funzionato. Molta gente pensa sempre ma c'è stato un grande allarme e poi non è successo niente. E non è successo niente perché sono state prese misure precauzionali serie, precise e puntuali. Niente allarme. Questi purtroppo, questi pochi casi che continuiamo a vedere, compreso questi italiani e altri casi che si vedono ancora in Europa, purtroppo pochissimi casi, sono dovuti ad infezioni che sono avvenute tantissimi anni fa, prima degli interventi precauzionali che sono stati presi. In chiusura allo sport, l'Inter mette gli occhi sul miglior giocatore del mondiale, la star dell'Uruguay, Forlan. L'idea è affascinante e gli uomini di mercato interisti ci stanno lavorando mentre attendono notizie da Balotelli e dal Manchester City. Non l'olandese Kuyt, pallino di Benitez, e forse nemmeno l'azzurro Giuseppe Rossi, che piace ma costa troppo, almeno 20 milioni di euro. Il sostituto di Balotelli potrebbe essere l'uruguaiano Diego Forlan, 31 anni, pallone d'oro del mondiale sudafricano, in cui è piaciuto sia per i gol segnati, 5, che per la capacità di mettersi a disposizione della squadra. L'Atletico Madrid lo valuta a peso d'oro, ma dalla sua ha un ingaggio non altissimo. Incrocio affascinante. Il 27 agosto a Monte Carlo potrebbe giocare la finale di Supercoppa europea non con la maglia degli spagnoli, trascinati alla vittoria in Europa League, ma con quella nerazzurra. In ogni caso si aspetta la mossa decisiva di Balotelli, mentre un altro colpo di grandissimo fascino potrebbe maturare in Spagna, dove Mourinho ha chiesto a Perez di portare al Real Ibrahimovic e la pedina di scambio sarebbe niente meno che Kakà. Un anno dopo, i due giocatori che infiammarono l'estate 2009, reduci però da una stagione deludente. Giovanni Capuano, GR24, Il Sole 24 Ore. E per concludere davvero questa edizione del Giornale Radio, vi diamo due ultime ore. La prima viene dal presidente dell'ANCI, Chiamparino, che chiede chiarimenti al governo perché debba smentire, dice Chiamparino, che ci siano da parte dell'esecutivo ripensamenti sull'autonomia impositiva dei comuni. Chiamparino ha parlato nel suo intervento di presentazione del rapporto sul quadro finanziario dei comuni. La notizia invece che viene dallo spettacolo è Black Swan, l'atteso nuovo film del regista americano Aronofsky, Leone d'Oro alla 95esima mostra nel 2006 per The West, sarà il film di apertura in concorso della mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, un thriller psicologico ambientato nel mondo del balletto newyorkese. Saluto qui Daniele Biacchessi, sono le 13:12 minuti e 2 secondi, le prossime notizie alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.